Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. Non uccidiamoli, vi prego, non uccidiamoli una seconda volta. Sono le parole forti, sofferte e sincere, gridate ieri nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio. Sono le parole che i familiari ieri hanno gridato col loro volto, la loro storia, la loro fatica, la loro speranza. Non uccidiamoli una seconda volta. No a parole irresponsabili. Sono gravi le parole irresponsabili che abbiamo sentito e che purtroppo continuiamo a sentire, come chi dice che i magistrati sono peggio della mafia. Attenti, vi prego, la mafia è una peste. Queste sono le parole di Don Luigi Ciotti, che ha pronunciato in occasione della giornata di Libera del 16 marzo a Firenze per le vittime di mafia, per la memoria e per l'impegno. Cioè, non avevo imparato il titolo, vabbè. La giornata della memoria e dell'impegno, il ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie. Vedi, però Tania, insomma, noi c'eravamo, questo è l'importante. Allora ci presentiamo innanzitutto. Io sono Pietro, piacere a tutti. Io sono Sara, ciao. Ovvero la panterona, in realtà. Io sono Tania la scorfana. Molto piacere. Questi epiteti simpatici. Perché? E c'è il tecnico che ci raccomanda di salutarlo. Ogni volta ci dimentichiamo di lui, ma il suo lavoro è fondamentale. E salutiamo anche Don Luigi, come sempre, certo, che ci ascolta. Sperando, insomma. Insieme a tanti altri. Allora, oggi volevamo appunto parlare della giornata di Libera a Firenze, ovviamente a cui noi abbiamo partecipato ed è stata molto emozionante, abbiamo partecipato come presidio. Ma mica solo noi, era pieno di gente, 150.000 persone. Sì, 150.000 persone, era uno spettacolo bellissimo per le vie di Firenze, c'era questo corteo gigante. Colorato, con mille bandiere, con la musica, e la Sara ha provato a cantare tutto il tempo, quello è stato forse lo spettacolo più indecente. Stava zitta un attimo. Non sono stata seguita tanto, non è stata le mie seguita, canzoni. Purtroppo il popolo non l'ha appoggiata. Troppo zelo. Siamo stati accompagnati da una bellissima giornata di sole e da davvero una manifestazione molto emozionante. Beh, iniziamo a raccontare la giornata. D'accordo. Vai. Da Bologna siamo partiti molto presto, alle 5 con i nostri autobus. Io un po' dopo le 5, perché se non ci fosse stata Sara a svegliarmi proprio non sarei probabilmente mai partita. E siamo arrivati, il viaggio è stato normale, insomma, si chiacchierava. E una volta scesi c'era già un mare di gente, perché non so perché siamo scesi dopo rispetto a tutti gli altri, cioè siamo arrivati davvero dopo, insomma, nonostante partissimo solo da Bologna. Sono dettagli che il nostro pubblico interroga. Assolutamente. Vabbè, Sara, okay. Insomma, sì, però insomma siamo arrivati e eravamo nella zona fortezza di Firenze, insomma, ci abbiamo messo un po' a orientarci, però insomma è partito il corteo. Abbiamo fatto un lungo percorso fino alla zona dello stadio, e dove poi ci siamo riuniti tutti. Noi purtroppo siamo arrivati tra gli ultimi, insomma, la piazza non era... sappiamo niente. No, sappiamo, però la piazza era già piena, quindi eravamo in fondo, insomma, non abbiamo trovato posto, ci siamo un po' infilati, ma non tanto, in mezzo non ha funzionato. Però abbiamo sentito appunto il discorso di Luigi, di cui vi abbiamo lasciato un pezzo all'inizio. Esatto, beh, intanto io a questo punto, prima di continuare a parlare della giornata, infilerei un pezzo di Fiorella Mannoia che c'era ha cantato per noi, secondo che verso il Vina Tania, che ha cantato per noi il 16 marzo, è stato molto bello, e quindi mettiamo un pezzo dei suoi, Io non ho paura. Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai. Chiamano speranza, ma a volte un modo per dire illusione. Ci penso da lontano ed ogni volta è come avvicinarti un po'. Per ogni anima tagliata, l'amore è sangue, futuro e coraggio. A volte sogni di navigare su campi di grano e ne ritorni. Quella bellezza resta in una mano e adesso che non rispondi, fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero, e tu da lì mi sentirai se grido. Aspetta, ferisce questa terra dolce e diffidente, ed ho imparato a comprendere l'indifferenza che ti cammina accanto, ma le ho riconosciute in tanti occhi le mie stesse paure, ed aspettare è quel segreto che vorrei insegnarti. Matura il frutto, il tuo dolore non farà più male, e adesso alza lo sguardo, difendi con l'amore il tuo passato, ed io da qui ti sentirò vicino. Fosse clandestino, fermare gli occhi in un istante e poi sparare in mezzo al cielo il tuo destino. Per ogni sogno calpestato, ogni volta che hai creduto in quel sudore che ora bagna la tua schiena, abbraccia questo vento e sentirai che il mio respiro è più sereno. Libera quest'anno è diventata maggiorenne, ha compiuto 18 anni. E questa giornata appunto è sempre stata fondamentale per Libera, l'ha sempre voluta. Il 21 marzo è in realtà la giornata nazionale in memoria delle vittime di mafia, come una data simbolica perché è il primo giorno di primavera. Poi ovviamente la manifestazione nazionale si fa nel weekend più vicino ogni anno, quindi questa cambia, insomma. Sì, appunto per ricordare le oltre 900 vittime di mafia, di cui vengono letti tutti i nomi dal palco durante la giornata. Ovviamente il 900 è l'elenco ufficiale, poi purtroppo ne sono ancora escluse altre. E molte tuttora altre. Di molte di queste non sappiamo neppure i mandanti, gli esecutori degli assassini. Perciò ci si trova tutti gli anni in una città diversa d'Italia e si leggono i nomi delle vittime, e oltre ai discorsi dal palco, tra cui quello di Luigi, nel pomeriggio ci sono i seminari che Libera gentilmente organizza per noi di approfondimento, sì, a cui chiunque voglia può partecipare. Noi abbiamo deciso di fare ulteriori approfondimenti perché ci siamo fermati anche il giorno dopo a Firenze, perché è partito un progetto non del tutto ufficiale, diciamo, quindi è un'anticipazione è un'anticipazione radio, e, in esclusiva diciamo oggi, in esclusiva è partito un progetto, appunto quello di creare una rete giovanile dei vari presidi giovanili di Libera che sono presenti in tutta Italia. Adesso ci siamo riuscite a riunire per ora con i presidi, insomma, della zona centro nord, più nord che centro. Quindi siamo fermati anche il giorno dopo a Firenze, abbiamo dalle 10 di mattina fino alle 5 del pomeriggio abbiamo fatto varie riunioni e ci siamo divisi in tre gruppi. Tema comune, e poi insomma abbiamo deciso su cosa lavorare in quest'anno tutti insieme come rete. No, è stato molto bello perché è stato un bel momento di aggregazione. Alla fine Libera è composta da talmente tante persone che spesso non ci si conosce, quindi è stato bello appunto vedere le altre realtà, vedere gli altri presidi e costruire una rete anche tra i giovani. Verranno tutti a Bologna a maggio, quindi insomma vi aspettiamo anche tutti voi alla nostra festa. Parentesi, propaganda. Becera. Vabbè, insomma, questo per dirvi un po' come sono state le giornate del 16 e 17. Noi adesso vi diamo un'altra pausa con i Negrita, se non sbaglio. Sì, Negrita, ho imparato a sognare.

per tornare alle parole, come voler dire rivoluzionare il mondo. Abbiamo appena sentito Francesca, che ha parlato a nome del nostro presidio alla giornata nazionale di commemorazione delle vittime di mafia, che questa volta si è svolta a Bologna, come in tantissime piazze d'Italia. Allora, raccontiamo un po' come si è svolta anche questa giornata. Vai, allora, dato che voi ne siete venute, allora. Facciamo un po' la topomastica. Raccontiamo la topomastica della giornata. Allora, la topomastica è consistita nel... Vabbè, abbiamo fatto un corteo da Piazza Verdi a Piazza Maggiore, qua a Bologna, e eravamo presenti in tantissimi ragazzi, soprattutto del liceo, davvero tanti, e abbiamo appunto letto i nomi delle vittime mentre sfilavamo per Via Indipendenza, e tra l'altro ogni tanto partiva la musica, soprattutto le canzoni dei Modena, che per Libera sono un chiodo fisso. Sempre. E poi siamo arrivati in Piazza Maggiore e appunto è iniziata la serie di discorsi. Sono stati vari interventi, tra cui quello di Antonio, che è il coordinatore provinciale di Libera. Poi ha parlato Nadia Monti, che è l'assessore alla legalità del comune di Bologna. Infine hanno parlato Peppe, che è il nostro referente, e il referente del presidio studentesco di cui sfuggono Paola, mi sembra. E poi Francesca, che avete sentito prima, che ha letto questa bella poesia e il suo bel discorso, insomma. Poi ci sono state lette, sono stati letti i nomi delle vittime di mafia, e poi abbiamo cercato lo stesso di trovare un momento piacevole, perché è comunque una giornata che si cerca di passare insieme anche in allegria, e quindi poi abbiamo ballato, sono partiti anche girotondi improvvisati, capovolti. Ecco, senza che la panterona vada troppo nel dettaglio, subentra la scorpana apposta per lasciarvi il pezzo. No, però prima del pezzo, scusa, Tania la scorfana, io volevo sapere anche la tua opinione sulla giornata. Perché simpatico, è stata stupenda, secondo me, mi sembrava che tutti fossero in un clima allegro, festoso. E lanciamo la canzone. La canzone di maggio di De André. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Bentornati, e adesso il nostro Beniamino Pietro ci racconterà cosa è successo questo pomeriggio, il 21 pomeriggio a Bologna, una cosa molto importante. Grazie Tania, la scorfana. Allora, 21 pomeriggio, cioè ieri, c'è stata una faccenda piuttosto importante, perché è stato inaugurato ufficialmente il primo sportello di sostegno e quindi di assistenza, oltre che di ascolto, per gli imprenditori che sono state vittime di usura, di estorsioni, racket nell'area bolognese, appunto a Bologna. È stato inaugurato dal comune, in collaborazione ovviamente con Libera. E è un punto molto importante, dopo quello di Modena, che ha ragionato un po' di anni fa, perché appunto, nonostante noi spesso lo sottovalutiamo, il problema delle estorsioni e dell'usura esiste anche nel territorio emiliano-romagnolo e non va assolutamente preso sotto gamba. Tra l'altro all'incontro hanno partecipato anche dei personaggi importanti, tra cui Vincenza Rando, che è responsabile dell'ufficio legale di Libera. E tu che hai intervistato, Pietro? Perché abbiamo visto che ti preparavi delle domande prima. Io ho intervistato milioni di persone, ma fa tutto lui. E tra cui c'era anche appunto Maria Carmela Lanzetta, che è sindaca di Monasterace, che ha subito molte minacce della mafia e intimidazioni per aver svolto semplicemente il suo lavoro con legalità e dignità, e quindi ha portato la sua testimonianza molto importante. È stato un momento molto commovente, tra l'altro. E poi per chiudere la giornata, c'è stata una serie di monologhi presentati da Libera Formazione, in cui si raccontava le storie di Peppino Impastato, di Rosario Livatino e altre figure molto importanti nel mondo dell'antimafia. Ok, la nostra puntata si conclude qui, speriamo di avervi invogliato, ispirato a partecipare alla prossima giornata di ricordo delle vittime di mafia, che ci sarà insomma fra un anno. Ora vi salutiamo, io la scorfana, ciao Sara, ciao Pietro, e vi lasciamo con uno splendido pezzo che solo Pietro sa pronunciare, di Eric Clapton e B.B. King. Dirige l'orchestra il tecnico Stefano Bossi. Worried Life Blues. Ciao a tutti. Oh Lordy Lord, oh Lordy Lord, it hurts me so bad for us to part. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many nights since you've been gone, I've had to worry and grieve my life alone. But someday, baby, I ain't gonna worry my life. So many days since you went away, I've had to worry night and day. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. Anymore. So that's my story. don't care what you do. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. Oh, Lordy, Lord. Someday, baby, someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.